L'essere Congo è stato il più colpito dalla guerra perché è attaccato dai paesi vicini, l'Uganda, anche il Burundi, ma soprattutto il Ruanda, il quale soprattutto non ha rinunciato dai dati numerosissimi che abbiamo, fonti ONU stesse, a prelevare ricchezze da questo est del Congo ricchissimo in minerali, foreste, terreni, eccetera, e non ha rinunciato al sogno di occuparne una parte, ed è a questo che la società civile attribuisce i disordini cominciati a Bukavu il 26 maggio, capeggiati, come di solito succede in queste guerre, da persone che sono o di origine ruandese o anche congolesi, e però combattono contro il proprio popolo a vantaggio di questi paesi stranieri che vorrebbero appunto prendere possesso dell'est del paese. Allora ci sono dei generali di quali non hanno voluto reintegrarsi nell'esercito nazionale congolese che si sta costituendo a fatica, e anche perché hanno diverse cose di cui rispondere alla giustizia, e malgrado ciò sono rimasti liberi di circolare, liberi di radunare, di ricevere armi e di radunare attorno a sé degli eserciti, dei gruppi armati di cui si sono serviti per impadronirsi della città di Bukavu, una città di 500.000 abitanti che si trova proprio alla frontiera con Ruanda e che è la capitale della regione del Sud Kivu. Allora in questi pochi giorni, dal 26 al 2 giugno, questi armati, i combattimenti sono cominciati in città di Bukavu, condotti da Mute Butsi, che è un colonnello che si è ribellato all'autorità dell'esercito congolese e ha cominciato i disordini in città, e poi è stato raggiunto dalle truppe di un altro colonnello ribelle, Nkunda, che sono avanzate verso la città progressivamente fino ad aggiungersi alle truppe di Mutebussi e a dichiarare ormai la città occupata. Tutto questo è avvenuto sotto gli occhi della MONUC, che è vero, avrà evitato il massacro, però la delusione della società civile e della popolazione è vedere che queste forze dell'ONU, che hanno ricevuto nel luglio scorso un mandato più forte sotto il capitolo 7 della carta dell'ONU, che dà loro il dovere di intervenire a difendere la popolazione, realizzano assai poco il loro mandato. Si aggiunge la notizia che di queste truppe che si stanno muovendo, truppe che la popolazione dichiara essere a grande parte ruandesi. Ora, mentre il governo ruandese e le sue autorità dichiarano noi non siamo presenti in Congo, la popolazione li riconosce, conta i camion. Il giorno 2 giugno sono entrati in Bukavu e c'è solo una strada che porta al confine Ruanda nella città, 15 camion pieni di militari pronti, freschi, con le divise tutte pulite, nuove. Non venivano da altri posti, non potevano venire se non da lì, hanno attraversato il lago, sono venuti dalla parte di Goma. Ora, quando la popolazione dichiara, grida queste cose, le sta gridando da mesi, le autorità ufficiali dicono ma non sappiamo se sono proprio ruandesi o se sono invece i Banyamulenge. Ora i Banyamulenge sono sempre parte di questa etnia, ma diciamo che in questo momento ha il potere in Ruanda, ma sono stabiliti in Congo da più di un secolo. Lo scoraggiamento che vive la società civile e la popolazione in questo tempo è che non è creduta. Noi stessi sperimentiamo questo, che quando riferiamo queste fonti di gente che paga sulla propria pelle questi eventi, ci viene risposto dalle autorità ma noi abbiamo le nostre fonti ufficiali, dicono che non si sa, bisogna vedere, bisogna analizzare, eccetera. Si cessi questa protezione, è inspiegabile come sia possibile che si chiudano gli occhi sulla situazione anche del Ruanda, che è drammatica. La paura si sente quasi fisicamente in quel paese, eppure si continua a credere che si sta realizzando un processo di democratizzazione. Com'è possibile che si chiudano gli occhi e si credano alle parole dei politici senza vedere cosa fanno in effetti? Ci sono tanti strumenti diplomatici per scoraggiare un paese e quello finanziario è il più potente. Perché non si usa questa carta? Si capisce anche lo sconcerto della moneta che non può tanto parlare perché c'è questa cappa internazionale di protezione che è ambigua e che però fa anche riferimento probabilmente anche allo sfruttamento delle ricchezze del paese del Congo. Non c'è solo il Ruanda dietro questa, non ci sono solo i congolesi traditori, non c'è solo anche un governo di transizione traballante, ma c'è una parte ancora più oscura, costituita più ancora che dalla politica, dall'economia, da queste grandi compagnie che hanno tratto vantaggio in tutti questi anni da tutto il minerale che partiva dal coltan, dall'oro, dai diamanti, dal legname, da ogni specie, da ogni bene possibile che si poteva prendere. E hanno preso dal sacco, chiudendo gli occhi su chi lo otteneva, senza rendersi conto, senza volersi render conto che chi teneva in mano il sacco non era il proprietario. 3 rapporti ONU sono usciti dichiarando anche per nome le imprese compromesse, ma non c'è nessuno Stato del nord del mondo che abbia fatto un'inchiesta seria. La vogliamo noi anche questa situazione?